Eccoci trovati in diretta da Sentieri Speciale Covid. Questo è il terzo episodio. Siamo a bordo del camper del progetto Pending con Anju. Ciao. Ciao. Ok, Camel. Buonasera. E Alfredo. Allo. E io sono Giulio. Alla guida c'è Gerardo. Gerardo. Ciao, buonasera. Ok, perfetto. Siamo tutti pronti. Siamo di rientro dall'ultima uscita di oggi della settimana a Campolongo, una zona di Eboli, è comune di Eboli, giusto? Stiamo rientrando a Santa Cecilia e siamo in strada qui al rientro. Oggi è stata un'uscita per noi piuttosto particolare, perché abbiamo seguito l'USCA di Eboli. L'USCA per cosa sta? Ve lo ricordate? Unità Speciale, speciale. ecco. Vabbè, dobbiamo indagare questa cosa qua, magari la dobbiamo cercare. L'USCA di Eboli che è impegnata fin dall'inizio della pandemia di Covid per fare screening a tappeto sul territorio. Voi che impressione avete avuto vedendo i tamponi? Angio, tu avevi già visto. Un po' di paura. Camelle, tu? Per me, per la prima volta, ho messo la tuta, la visiera e insomma eravamo Unità blindati. speciale contro i Infatti, più per le donne che non si sentivano molto bene quando. E poi ho notato che parecchi ragazzi hanno avuto paura durante il test, quando facevano il test antisettico, e quindi una cosa che ci ha fatto un po' pressionare, però è andato tutto bene. Alla fine tutto bene. Sì, tutto bene, hanno fatto oltre ai tamponi che sono abbastanza impressionanti da vedere, cioè è una cosa che non auguro, cioè non auguro due cose in questo periodo a nessuno, né di prendere il coronavirus né di doversi fare un tampone. Per stare tranquilli ci sono le norme che con il camper stiamo cercando di diffondere a tutti. Chiaramente ci stiamo rivolgendo nello specifico a chi non ha una buona padronanza dell'italiano e non ha una facilità di lettura delle notizie, degli aggiornamenti che ci sono sulle ultime normative, né sulla possibilità magari di avere un accesso a internet decente per poter essere informato in maniera corretta. Quindi ci stiamo provando noi. Oggi abbiamo incontrato anche dei volontari della Caritas che stanno facendo anche loro questa attività sul territorio. Non auguro il tampone e il coronavirus, cioè un bastoncino infilato in entrambe le narici Fastidioso. per dire sì. C'erano quindi i tamponi e i test rapidi che vengono fatti anche negli aeroporti, che funzionano sempre con il tampone, quindi non c'è bisogno del sangue, di un prelievo di sangue, ma funzionano con il tampone. E negli screening fatti oggi tra Eboli e Campolongo, dai questi primi esami non ci sono state persone risultate positive. C'è qualche caso in zona, sia ad Albanella, dove siamo stati venerdì in moschea, sia qui proprio ad Eboli, a Ponte Cagnano. Ci sono dei focolai, non so se è corretto chiamarli focolai, ci sono dei casi di positivi in alcune aziende agricole. Camel, da quello che ti hanno raccontato le persone che lavorano nelle aziende agricole, chiedo pure a te, Alfredo, da quello che hai sentito rispetto a loro, le norme vengono rispettate, viene presa la temperatura, le persone Sì, sono. io un ragazzo che sono riuscito a parlare con lui, insomma, mi ha detto che hanno un sistema quando entrano l'azienda, cioè un tipo di scanner che misura, diciamo, la temperatura e così. noi oggi eravamo muniti di tutte le protezioni possibili e immaginabili, visiere, tute, usa e getta, guanti, mascherine. Alfredo, non lo so, per te è importante riuscire a fare questo lavoro qua in equip anche per controllare l'uno e l'altro, ci sono delle accortezze, non lo so, tu mettendoti la tuta, non so se ti era già capitato nelle altre attività, che hai pensato? No, è stato un po' stressante, nel senso che allora, i ragazzi che sono venuti lavoravano in un'azienda agricola dove è stato circoscritto un piccolo focolaio, per cui insomma c'era anche possibilità che qualcuno fosse positivo. E quindi è stato un po' stressante stare molto attenti a tutta la profilassi sanitaria rispetto non solo al fatto di indossare i dispositivi di protezione individuale, quanto stare attenti poi in tutte le attività che facevamo, perché ovviamente non è che stavamo là con una presenza passiva, ma abbiamo comunque promosso un pezzo importante del progetto Pending, che è la parte di accompagnamenti e orientamento sanitario mentre i ragazzi facevano i tamponi. No, per cui sì, questo è stato un po' stancante questo. D'altra parte però per un operatore del sociale trovo sempre molto gratificante, fra virgolette, abbracciare un po' il rischio, nel senso che in certe situazioni, soprattutto di emergenza e criticità che stiamo vivendo in questo periodo, io penso che il valore veramente della prossimità, del fatto di intervenire per aiutare l'altro che magari ha meno strumenti da un punto di vista culturale, linguistico e anche come possibilità concrete rispetto alla questione, credo che sia una cosa fondamentale e importante, sia l'essenza di quello che, di quanto si racconta di Gerardo, dobbiamo andare a Santa Cecilia. Santa Cecilia. Ok, nel frattempo siamo davanti all'outlet Cilento, quindi. Dicevo che insomma, l'essenza legata un po' a tutto ciò che significa associazionismi, volontariato e non solo, ma anche cooperazione sociale, insomma, questa era la questione. Sì, è stressante dover. Allora, forse la differenza con altre volte è quella di dover pensare anche alla protezione di se stessi e anche a quella di proteggere, cioè come se si fosse aggiunto un livello ulteriore di pensiero che per chi lavora nel sociale, ricordavamo nelle altre puntate radio che abbiamo fatto, Camel lavora in una comunità, in un sipproimi per minori. Angiu è anche operatrice, oltre che mediatrice culturale nel progetto Pending, è anche operatrice allo sportello CGL dove fa consulenza ai cittadini di nazionalità indiana, pakistana e bengalese, forse è la presenza più numerosa, quindi diciamo sono persone abituate a buttarsi nella mischia, c'è appunto questo livello di difficoltà ulteriore che è quella di pensare ai colleghi innanzitutto, alla squadra, al proprio gruppo di lavoro, alla persona che si ha di fronte e alle persone che sono a casa o che e alle persone domani, che incontreremo tra poco tornando a casa domani, quindi questa forse è la parte più stressante, è sicuramente però compensata da una gratificazione nel poter dare delle informazioni in lingua alle persone che stanno facendo anche un tampone per spiegare loro qual è il senso di avere un test positivo, vuol dire avere un test negativo che comporta comunque non essere immuni dal coronavirus. E per loro, scusami Giulio, ma per loro è un'informazione fondamentale, perché la loro presenza al lavoro martedì è vincolata dalla buona riuscita del test oggi, nel senso che se loro sono positivi da martedì non potranno lavorare, dovranno stare in quarantena, e per ragazzi che vivono di poco, se manca anche il poco diventa ancora più preoccupante, quindi per loro c'era anche questa base di tensione questa è una cosa comune al camper, come abbiamo ascoltato i le puntate precedenti. Siamo in giro col camper da inizio luglio. Questo che dice Alfredo è un tema costante, cioè ci sono persone che senza il lavoro non avrebbero nient'altro. Quindi veniva da pensare anche a me tante volte al lusso di poter fare una quarantena, come il presidente Trump adesso, come tanti altri malati in questo momento in Italia, e anche come per chi come noi ha potuto fare un lockdown sereno in una casa con tutta una serie di comodità, a differenza magari di delle persone che stiamo incontrando che sono andate a lavorare durante il lockdown, che non si sono mai fermate e che probabilmente hanno dovuto raccontarsi anche il virus in un modo diverso per poter andare avanti e continuare la loro vita ordinaria di tutti i giorni. C'è questo grado di vulnerabilità che è evidente, cioè ci sono persone che non possono neanche stare in isolamento perché non vivono in isolamento da tanto tempo, non è mai capitato questo. I tamponi oggi, oltre che per strada, proprio on the road con l'unità mobile dell'USCA di Eboli, sono stati fatti in altre strutture che ospitano migranti qui nel luogo, nella zona. Anche qui gli screening che vengono fatti e i controlli nelle strutture sono molto alti, cioè ci sono, vengono fatti allo sbarco, vengono fatti in arrivo nelle strutture e sono comunque monitorati da operatori, da tutta una serie di persone, dalle ASL, quindi questo anche per rassicurare, insomma, che eventuali casi positivi in strutture di accoglienza si ha comunque la fortuna di tenerli monitorati. O no, Camel, a te per esempio è capitato di andare ad assistere a persone che sono arrivate, che avevano tutta la documentazione? C'è quel grado di tensione che descriveva Alfredo prima, però sì, è anche vero che poi passano tutta una serie di attenzione, di... Sì, come ha detto Alfredo, sì, è logico, io penso che la tensione c'è, la tensione però è il rischio, parte sempre del nostro lavoro e la tensione, come hai detto pure tu, uno quando ritorna alla sua famiglia, cioè un rischio c'è, però il nostro lavoro dobbiamo fare fino alla fine. Mo, per esempio, siamo arrivati a Santa Cecilia prima, all'inizio, quando siamo arrivati, i ragazzi non mettevano i mascherine e adesso notiamo, è diverso, vedi i ragazzi tutte con le mascherine. Sì, un piccolo risultato l'abbiamo diciamo l'abbiamo ottenuto, si è diffusa per fortuna anche la voce che certe misure sono adesso tornate obbligatorie, anche se bisogna dire che già dall'inizio, da quando c'è stata la prima ordinanza che la rendeva obbligatoria a partire dalle 18, sì. Finora, almeno qui dove siamo adesso, nella rotonda di Santa Cecilia, le regole della gran parte delle persone, ecco, erano dalla gran parte delle persone venivano rispettate, quindi l'importante è riuscire a tenere queste persone monitorate. Quelle che abbiamo incontrato oggi sono persone invece che vivono in alloggi autonomi e appunto c'è bisogno di andare di avere un contatto con queste persone, sì, perché sì, altrimenti resterebbero totalmente invisibili, sì, facendo casa, abitando dietro al luogo di lavoro e non avendo neanche rapporti sociali. La cosa assurda è che appunto sono persone che vivono già isolate dalla società e non lo so, questa è un'altra cosa che fa riflettere. Non... Sì, io ho notato pure la difficoltà e insomma, ma pure facendo il test il medico non riusciva a infilare proprio perché iniziano proprio a lamentare, non riuscivano proprio a resistere, quindi ho notato pure la difficoltà per lasciare i numeri di telefono, qualcuno ha lasciato proprio il numero di telefono sbagliato con 8 cifre, quindi poi si ripete, quindi sì, hanno chiesto oltre al nome e cognome, sì, hanno, è stato chiesto il numero di telefono per poterli, sì, informare e per poterli tenere agganciati, quindi appunto. C'è molta diffidenza, sì. Si dice, cioè quello almeno, no, si respirava, perché appunto sono vite che vengono, che sono vite che si collocano ai margini di tante cose, di, appunto su confini sfumati, per tanti motivi, e non è sempre facile fidarsi dell'altro. Sì, oggi appunto non era facile, per sì. Questo magari anche l'importante è avere qualcuno come voi che riesce a parlare, sì, la lingua delle persone, che riesce ad avere un approccio più umano e non solo puramente tecnico, da batteria, da campione, perché si ha comunque a che fare con delle persone, con dei modi di vista, con dei punti di vista, sì. E questo almeno gratifica il lavoro che si sta poi facendo. Almeno sì, la fiducia, il senso che no, invece di entrare con la paura, e insomma. Ok, noi qui siamo arrivati, penso che faremo una meritata pausa caffè, sì, prima di tornare a casa, almeno per scaricare un po' di tensione, sì. Che appunto c'è, cioè, è stata una giornata bella tosta, un pomeriggio molto duro. Ci sentiamo alla prossima puntata, ciao a tutti da Alfredo, ciao. Camelangio, ciao. Ciao. E Gerardo, ciao ciao ciao.